Nessuno sa il futuro, oscuro come l'ombra contro un muro. Resa e consumata, ridotta ad un bisbiglio, la voce di una donna, la foto di suo figlio. Caduto in uno spasimo, rapito al suo cammino, spezzato dentro un piatto, pane e vino. Dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo? Nessuno sa la fine, guardar marcire i frutti per masticare spine. Nel buio delle viscere, il morso del dolore, per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore. Lasciato solo al bivio, trovato dal destino, chi carica il cannone, scappa nel mirino. Dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo? Principio, nessuno sa il futuro che aspetta come l'ombra contro un muro. E non sarà un bastone né il fumo di un fucile a fare forte un uomo, a farlo meno vile. Gli basterà una lacrima, limpido segnale che può sentire amore, che può fuggire il male. Gli basterà una lacrima, visibile cammino dal fondo della notte al chiaro del mattino. Dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo?